Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo prima con la sigla. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che andrà avanti fino alle ore 21:30. Siamo in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine e vi ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Ma il brano che abbiamo come sigla è Retribution dei Behind Enemy Lines. E ora andiamo così alla presentazione, all'ascolto di questa band tedesca, band che è esistita nei primi anni 2000, tant'è che questo è il loro ultimo album uscito nel 2007. Loro sono i Bombernalarm e questo è il loro album No Mistakes. Thank you. Sì, e un saluto anche da parte mia, benvenute e benvenuti all'ascolto di Zandis Magnetics anche per questo giovedì 30 marzo. Allora, oggi dedicheremo abbastanza spazio a una iniziativa che si è appena svolta lo scorso fine settimana, sabato e domenica 25-26 marzo a Napoli. Una iniziativa di cui avevamo già accennato in precedenti puntate, avevamo anche mandato la chiamata, diciamo, e si è trattato di un incontro che è durato appunto 2 giorni dal titolo Memoria come resistenza, storie di compagne rivoluzionarie, un incontro femminista per ascoltare le voci di chi negli anni 70 e 80 ha lottato con ogni mezzo necessario. Questo incontro era aperto a donne lesbiche, identità trans e non binarie. E diciamo che nella chiamata delle compagne veniva sottolineata l'importanza di questo incontro per non lasciare in mano al nemico la nostra storia, nostra intesa come storia di oppresse e sfruttate, per riappropriarci di ciò che la repressione vorrebbe farci dimenticare, e quindi per opporsi alla strumentalizzazione della storia, per continuare a sentire vive le possibilità di una radicalità femminista in lotta contro ogni oppressione e autorità. E allora, io ho partecipato tra l'altro a questa 2 giorni, molto interessante e anche entusiasmante per tutto ciò che è emerso, e appunto abbiamo pensato di parlarne insieme con una delle compagne che ha organizzato. Quindi adesso così mandiamo ancora un po' di musica intanto che ci colleghiamo telefonicamente con la compagna. Ecco, non so se la compagna è in onda. Ci sono. Ci sei, ciao e benvenuta. Ciao a tutte e tutte. Ciao. Allora, io già così ho anticipato che parleremo della 2 giorni di Napoli, e andrei subito con la prima domanda. Vai, ci siamo. Ecco. Sarebbe interessante capire insieme qual è stato il percorso che vi ha portato a organizzare questo incontro femminista, separato e di storia orale. Allora, sicuramente diciamo che un po' tutte le persone che hanno organizzato Memoria come Resistenza siamo un po' appassionate di quella che noi chiamiamo la nostra memoria femminista rivoluzionaria, e quello che è successo è che siamo state in vari progetti di questo tipo, più o meno diciamo formali e informali, fino a che le compagne catalane di Esodi Jean ci invitano all'incontro che loro fanno a Barcellona una volta l'anno, che ormai è la sua quarta edizione, in cui effettivamente loro facevano esattamente questo. Mm-hmm. Quindi invitavano compagne che avevano vissuto la lotta rivoluzionaria in giro per il mondo a raccontare un po' la loro esperienza in uno spazio non misto e per appunto immaginato un po' per la trasmissione orale della memoria. Mm-hmm. Quindi le compagne, alcune vanno, poi tornano fomentatissime, ma anche dopo un po' di tempo con una rivista. Questa rivista è in castigliano, quindi in un gruppetto che andiamo forti con le traduzioni ci mettiamo e traduciamo. Mm-hmm. Nel mentre appunto quelle di noi che già avevano partecipato per esempio all'incontro un po' su questo filone che la coordinamento aveva organizzato a Roma qualche anno fa, e insomma quelle che erano state a Barcellona, e chi di noi insomma si era preso bene con questa storia della traduzione, diciamo beh, comunque questa cosa va fatta anche in Italia, perché abbiamo un patrimonio diciamo di memoria che a cui è molto difficile attingere, perché appunto se già parlare degli anni 70, 60, 70, 80 è molto difficile, perché è un periodo che il potere vuole un po' cancellare o comunque riscrivere completamente rispetto al senso e alla forza che ha avuto, e è evidente che comunque eventualmente di narrazioni ce ne sono, ma sono prevalentemente maschili, con tutta quella diciamo quella serie di peculiarità che spesso le narrazioni maschili hanno, quindi un po' una dimensione che noi troviamo un po' faticosa, perché è un po' eroica, comunque molto individuale, comunque molto appunto legata alla parola scritta e via dicendo. Mm-hmm. Quindi ci diciamo, beh, se vogliamo fare una cosa del genere in Italia, vogliamo cominciare direttamente sul contesto italiano, perché ci sembra che comunque il tempo scorre e che le compagne imbiancano, quindi era un buon momento per farlo. E quindi ecco qua, più o meno l'idea viene fuori così. Bello, comunque quello che dicevi all'inizio, la passione che vi ha unite per le memorie femministe di donne rivoluzionarie si sentiva molto durante questi due giorni, non solo da parte delle testimoni, diciamo che sono state veramente bravissime, secondo me, ma anche da parte vostra che appunto avete organizzato il tutto. E allora magari diciamo due cose sulla questione del separatismo, diciamo della decisione di organizzare questo incontro in maniera separata, perché diciamo che è una cosa abbastanza che difficilmente i maschi, chiamiamoli così, comprendono. Mm-hmm. E anche i maschi più non patriarcali, no? Per così dire, ma che magari si dispiacciono anche di non poter partecipare a incontri di questo tipo. Forse manca un po' una cultura, diciamo, una consapevolezza anche di che cosa significa, no, il separatismo, anche negli ambienti nostri, diciamo. Sì, ecco, quindi se puoi dire qualcosa su questo, cioè su questa scelta, e sì, se possiamo parlare di questo, insomma. Certo. Scusa, una cosa ancora dico, appunto, ad esempio nella mia esperienza, diciamo piccola esperienza, gli incontri separati sono sempre avvenuti in gruppi molto piccoli, no? Quindi quasi in collettivi, diciamo, sì, in collettivi proprio... dove tutti si conoscono molto bene, eccetera. Invece in questo caso qui è un po' diverso, no? E quindi appunto sì, la dimensione diciamo di questo incontro era un po' diversa, quindi ecco, se puoi così, se possiamo approfondire un po' questo aspetto. Sì, allora sicuramente diciamo che appunto un po' viene come parte di percorsi di lotta che ci attraversano, nel senso che variate di noi sono persone che in alcune o in tante o nella maggior parte delle lotte che attraversano si organizzano così, quindi sicuramente viene anche da appunto una certa abitudine a questi spazi. Mm-hmm. Dopodiché la riflessione, diciamo, più profonda che motiva un po' la scelta di creare uno spazio non misto per parlare di memoria rivoluzionaria viene per una serie di ragioni. Una è sicuramente quella che, come dicevo poco fa, gli spazi in cui cioè, il materiale che si può reperire quando appunto cerchiamo di capire, di leggere, di studiare la storia di quegli anni è, come del resto la maggior parte della storia in generale, sì, assolutamente domina, cioè lo spazio è ha una predominanza maschile molto evidente. Mm-hmm. Noi tra l'altro, cioè, non so come dire, la nostra lettura, che sicuramente unisce le compagne tutte che hanno preparato questo incontro, è il fatto che, non so come dire, questo non ha fatto un caso, il fatto che veniamo, diciamo, socializzati attraverso dei ruoli di genere e il ruolo di genere delle donne e delle dissidenze del genere è normalmente uno spazio che si vuole privato, relegato a una sfera principalmente domestica, di cura, di attenzione per l'altro, sicuramente non uno spazio di appropriazione della forza, appropriazione mm-hmm. della violenza, appropriazione dello spazio pubblico in generale. Quindi diciamo che partendo da una basicissima uh-huh. analisi del patriarcato ci veniva automatico immaginare uno spazio in cui in cui fosse facile riprendere uno spazio di parola pubblica, di presenza su un piano appunto visibile, e assolutamente ricentrare il discorso su quelle soggettività che normalmente la storia vuole invisibili o silenziate. Sì, sì. Quindi sicuramente diciamo questi piani. Poi, se te lo devo dire con una battuta, è difficile, non so come dire, riflettere e ragionare mentre ti tirano le pietre. Nel senso che noi sappiamo benissimo che con tutto l'amore o con meno amore, ma comunque la dimensione, appunto la presa di parola pubblica in degli spazi misti è molto più complicata che la presa di parola pubblica in degli spazi separati, perché il fatto di condividere appunto un'oppressione sistemica mm-hmm. Rende più semplice la comprensione reciproca della difficoltà e dell'imbarazzo, e quindi spesso porta a un superamento o comunque una gestione di queste difficoltà e di questo imbarazzo dello spazio pubblico assolutamente evidente dal mio punto di vista. Non so se sì, ti suona. Sì, mi suona. Infatti, appunto, è stato veramente uno spazio e un tempo in cui non c'è stato da parte mia assolutamente disagio in nessun momento, cioè c'è stata una grande apertura, un grande dialogo anche intergenerazionale, anche tra persone con temperamenti, diciamo, oltre che storie molto diverse, no? Anche contrastanti magari, però senza diciamo tentativi egemonici o comunque situazioni di disagio, così, di inferiorizzazione magari di qualcuna. Sì, è stato veramente sono stati dei bei momenti, insomma, di scambio, molto anche Sì, importanti politicamente ed esistenzialmente, secondo me. E quindi sì, è riuscito, direi che gli intenti sono riusciti. E sì, sono bon, poi a livello di contenuti ci sono state veramente tantissime cose. C'è stato uno scambio, insomma, importante tra le tante partecipanti. E, sì, ecco, se vogliamo dire due cose, appunto c'è stata questa parte molto interessante sulla a parte le testimonianze che poi voi dovrete pubblicherete, vero, gli atti di questi due giorni? Sì, e il piano ambizioso ma comunque in itinere è quello di appunto sbobinare e poi farne una pubblicazione, certo, appunto sulla falsariga di quella che hanno fatto della traduzione, le compagne che hanno lavorato sì sulla storia orale, tra l'altro appunto anche le compagne di femminista, di coordinamento femminista e lesbica, quando avevano fatto l'incontro, avevano fatto un incontro orale e poi però appunto gli atti sono stati tra l'altro anche materiale di studio per noi, ma anche per tante altre compagne che ma infatti a queste tematiche si interessano. Sì, sì, difatti conosciamo anche noi questi iscritti qua. No, sono tutte cose molto importanti, proprio. Sì, di cui far tesoro. E quindi non parliamo, diciamo, delle testimoni stasera, perché comunque ci sarà modo di leggere dettagliatamente i loro interventi. E a partire appunto dalla loro presa di parola, però poi si sono create queste tavole rotonde su repressione e solidarietà dentro e fuori le prigioni. Anche questo molto, molto stimolante, e poi appunto sull'importanza della trasmissione della memoria. Quindi tutti e due questi, diciamo, contenitori sono stati sì veramente molto interessanti. E, sì, ecco, quando abbiamo fatto la presentazione, diciamo, della scaletta di stasera, e abbiamo scritto, presentando appunto la chiacchierata così con te, che sì, la memoria e la presa di parola è utile, è produttiva per continuare a lottare, nel senso che appunto l'importanza anche di incontri come quelli che si sono svolti sabato e domenica scorsa a Napoli è anche questa di e riappropriarsi di una storia viva, no? Quindi di non fare lavoro, diciamo, storiografico o memorialistica o comunque così, ma di fare questo lavoro anche in maniera seria e approfondita, ma perché tutto ciò serva alla vita, alla lotta, a prendere coraggio anche, no? In un momento che non è proprio dei più felici dal punto di vista delle istanze rivoluzionarie. Beh, sicuramente sì, noi diciamo ci sentiamo riteniamo che sia importante in qualche modo conoscere e riconoscere chi siamo, da dove veniamo, quali sono stati, diciamo, i passaggi che hanno portato la storia del movimento, dei movimenti, della lotta e delle lotte a quello, diciamo, la situazione in cui siamo adesso, ma anche appunto la storia di come si è sviluppato. Prima menzionavi, abbiamo parlato di carcere e repressione, ci sembrava interessante anche riflettere su come i dispositivi sono andati sviluppando nell'arco, certo, del tempo, con chi effettivamente questi cambiamenti l'ha vissuti, li ha visti e li ha analizzati, a partire da appunto un'esperienza personale, quindi completamente al di fuori di quella logica un po' dell'egemonia del sapere dell'accademia, quindi di uscire dalla dimensione della riflessione finalizzata a un interesse per il cambiamento reale di questo mondo e delle sue dinamiche di dominio, ma piuttosto finalizzata appunto al sapere per il sapere, piuttosto che il sapere per la riproduzione di questo mondo in maniera sempre più sofisticata. E quindi sì, sicuramente noi ci sentiamo e la partecipazione un po' alle giornate, sia da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto da un punto di vista qualitativo, ci ha dato proprio la misura del fatto che questo lavoro lo facciamo nel solco di tante compagne che prima di noi hanno lavorato per appunto il recupero della memoria, per opporsi a una narrazione della storia appunto scritta, per dirla con una banalità, dai vincitori, che quindi completamente cancella e spazza via tutte quelle appunto soggettività e individualità che hanno provato ad opporsi in delle maniere che evidentemente non erano sussumibili da parte dello Stato. E diciamo che appunto il tipo di partecipazione che hanno visto queste giornate, quindi una partecipazione fatta di interesse, di input, di domande, di stimoli, di anche, non so come dire, punti di vista differenti, certo, fra persone che hanno vissuto gli stessi anni, perché a prescindere magari dalle relatrici, dal pubblico sono anche venuti interventi rispetto a appunto prospettive diverse rispetto alla medesima storia, ci ha dato un po' la misura che effettivamente questo lavoro serve e effettivamente questo lavoro lo stiamo facendo in tanto, e è veramente una storia orale e corale che stiamo costruendo. È vero. Bene, non so, abbiamo qualche altra cosa da sviscerare? Ma secondo te? Io direi, abbiamo detto, non mi sovviene sicuramente. Vi ringrazio sia per questo spazio, ma anche per la partecipazione appunto alle giornate, perché sì, io ritengo che queste, cioè che il senso di queste giornate era proprio esserci e esserci, diciamo, portare le proprie riflessioni e il proprio interesse, cosa che appunto tu come le altre compagne che c'erano avete fatto, e io penso che appunto per noi è stato il miglior riscontro del tempo che abbiamo dedicato a questa iniziativa. Bene, allora dobbiamo rifare qualcosa al più presto. Perfetto. E continuare così. Bene, allora niente, anch'io ti ringrazio e alla prossima. Un saluto a tutte e a tutte. Anche a tutte e le tue e i tuoi. Ciao. Ciao, buona trasmissione. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. E stiamo ascoltando questa band australiana, loro sono le Cold Meat e questo è un loro EP uscito nel 2016 che si chiama Jimmy's Lipsticks. It's nice to have a chit occasionally. Let's go! Sì, torniamo in voce. Allora, il 25 marzo scorsi, sabato scorso, quindi, mentre si svolgeva la prima giornata appunto dell'incontro sulla memoria di donne rivoluzionarie a Napoli, di cui abbiamo parlato prima, c'è stata anche un'importante iniziativa a Venezia, e cioè un corteo solidale a sostegno di Juan, in quanto appunto questo corteo anticipava, diciamo, l'udienza del 28 marzo 2023, udienza alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, per gli ordigni che contro la sede della Lega di Villorba Treviso dell'agosto 2018, allora per la cui accusa, insomma, era stato condannato a 28 anni di carcere. Appunto, la sentenza del 28 marzo consiste in una condanna a 14 anni e 10 mesi. E allora, a proposito di questo corteo particolare, in quanto singolare, diciamo, come dimensione, in quanto si è svolto appunto a Venezia, città in sé particolare, vorrei leggervi il comunicato del collettivo SUMUD, che era tra gli organizzatori, e che è un collettivo, scusate, SUMUD è un collettivo universitario veneziano. Ci scrivono i compagni: c'è chi corre e c'è chi trotterella. Incubo anarchici, città blindata e divieti. Anarchici, 700 agenti per blindare la città. Corteo anarchico, la grande paura. Blef degli anarchici a Venezia. Questi erano appunto titoli dei giornali. C'è chi corre a chiudere il proprio negozio per paura della calata, paura delle violenze di un corteo che fin da subito si è posto come comunicativo e di solidarietà, e quindi una paura generata solo dalle dichiarazioni di giornali e sbirraglia avvenute per l'arco di tutta la settimana precedente al corteo. Corre per bloccare una città 24 ore prima di una manifestazione, intasarla di sbirri ad ogni angolo, pronti ad accorrere per controllare la prima cosa fuori posto. Corre a creare un dispositivo sicuramente mai visto nella storia di Venezia: 6 sbirri per manifestante, elicottero, Digos da tutta Italia. Corre a seguire compagni e compagne, pedinandoli e intercettandoli, fermandoli in qualsiasi occasione per mettere pressione e fare sentire il controllo capillare costante. Corre per creare un qualcosa che sia il sintomo esplicito dei tempi che viviamo, i tempi della guerra non dichiarata ma sempre più perseguita, in cui al primo guizzo di risposta da chi a questo mondo si oppone, in questo caso i pericolosissimi anarchici, deve essere colpito in tutti i modi, isolato, demonizzato. Perché c'è anche chi corre a crearlo, questo clima di guerra, come fatto per tutta la settimana precedente al corteo, con deliranti articoli che tiravano in mezzo di tutto e qualcosa in più, con ordinanze assurde, bisognava giustificare l'avere con sé una bottiglietta, con perquisizioni e così via. Un clima necessario per cercare di isolare chi lotta, per colpire sul nascere i percorsi di solidarietà. C'è chi corre e si agita quando il nuovo si pone, anche opponendosi al nulla, quando scopre che la lotta non si fa tramite l'autorizzazione della questura, tramite il beneplacito dello Stato, ma che se si deve dire qualcosa, se si deve fare qualcosa, lo si fa e dice e basta. C'è poi chi trotterella da un campo all'altro, battendo in velocità chi corre, riuscendo così con l'obiettivo del corteo, senza farsi bloccare dove ci si aspettava il finimondo, lasciando così per un intero pomeriggio un cospicuo numero di sbirri in campo Santa Margherita a fare brutto da soli. Trotterella qua e là per creare ponti fra le varie lotte, aprendo nuove strade e nuove complicità. Trotterella qua e là in città, comunicando come, dove e con chi può. Trotterella non con uno ma addirittura con due, per qualche breve istante cortei nella giornata pensata dalla corsa mediatica della settimana precedente come iperstatica. Bloccheremo gli anarchici, si leggeva su qualche carta straccia di giornale. Trotterella stando fermo in campo dei frari con interventi e riflessioni, per poi trotterellare con il cuore gioioso al punto d'incontro dove i compagni e le compagne rimaste fuori arrivano in corteo improvvisato per ricongiungersi e partire davvero tutti insieme verso Piazzale Roma. Insomma, chi corre ha sbagliato tutto, non è riuscito né ad impedire il concentramento né ad evitare il corteo. Ma in compenso si è premurato di caricare il fondo del corteo con l'unico fine di provocare degli scontri ricercati solo dai tutori dell'ordine. L'unica vittoria di chi corre, crediamo, sia stato il terrorismo mediatico che pensiamo abbia potuto scoraggiare alcune delle persone che volevano prendere parte alla giornata e ora devono correre alle giustificazioni. Perché così tanti sbirri? Perché tutti quei negozi chiusi? Sicuramente sapranno decantarla come una loro vittoria per l'ordine pubblico contro i violenti, ma almeno intanto qualche risposta la dovranno dare. Chi trotterella invece, grazie anche ad un elevato grado di determinazione e lucidità mentale, è riuscito a creare qualcosa che nella storia di Venezia non si era mai visto, a portare la solidarietà ad un compagno che rischia 28 anni di galera per una strage senza morti o feriti in una città assediata dagli sbirri. Chi trotterella sente ancora nelle orecchie i cori dei due cortei che avvicinandosi si intensificano, rivive quegli attimi di estasi, eccitazione, gioia materiale che riempiono di rinnovata forza ed energia e trotterellando di ponte in ponte canticchia libertà, riuscendo così a creare un corteo comunicativo che non cedesse a provocazioni e che soprattutto non si è fatto impaurire dal clima di guerra creato. Perché la solidarietà sarà sempre una delle armi più forti per chi lotta. Collettivo su Mood. Bene, abbiamo ascoltato questa band statunitense dell'area di Washington, band molto conosciuta, loro erano le Bikini Kill, che furono, diciamo, tra le cosiddette band Girl Style, e comunque erano negli anni 90, e questo era una loro tape del 91, che è stata rimasterizzata nel 2015. Comunque adesso passiamo ad una band brasiliana, tra l'altro una o due settimane fa abbiamo presentato il loro ultimo album uscito nel 2022, ma loro sono i Ratos de Porão, e sempre nel 2022 hanno fatto uscire un altro disco, un altro vinile, che tra l'altro è già stato ristampato adesso nel 2023, ed è una cosa un po', diciamo, abbastanza strana. Questi Ratos de Porão hanno fatto uscire un vinile con tutti i brani della band storica dell'anarco punk degli anni 80 finlandese, ovvero i Terved Cadet. Loro hanno rifatto tutti i loro brani, o perlomeno una decina di brani, che hanno fatto uscire poi su un vinile, e quasi tutti però con i testi in brasiliano. Allora ci andiamo ad ascoltare Ratos de Porão. Let's go. Bene, allora ci siamo ascoltati praticamente un lato di questo, di questa recente uscita dei Ratos de Porauben brasiliana, che ha fatto questo 10 pollici andando a recuperare tutti questi vecchi brani dei Tervet Cadet, band finlandese che è esistita nei primi anni 80, e ricantandoli in brasiliano. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band di Milano. Questa è la loro primissima uscita discografica, hanno fatto uscire questo, cioè discografica CD, e loro sono La Città Dolente e questo è il loro album Sales People. Ritorniamo in voce per dare insieme a un compagno che è al telefono gli aggiornamenti sulla lotta di Alessio Attanasio. Sì, ciao a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Giardin Spagnetics. Sì, come associazione Senza Sbarre, alias insomma Assemblea permanente contro il calcio e la repressione di Trieste, Udine e dintorni. Continuiamo a ricevere corrispondenza da Alessio e Atanasio, che è nel carcere di rinchiuso nel carcere di Oristano attualmente, no? Sì, a Massama, no? Massama Oristano, sì. E, in sostanza, la cosa importante, rilevante, è che Alessio sta conducendo uno sciopero del vitto, per la in solidarietà Cospito, dal suo Cospito, e pur pur essendo anche lui almeno così erano le ultime notizie, pur essendo anche lui in isolamento, ha deciso di un motivo in più di solidarizzare con la lotta di Cospito, rifiutando il vito dell'amministrazione penitenziaria. Vi volevo leggere la dichiarazione, perché insomma è significativa, che lui invia al magistrato di sorveglianza di Cagliari, al direttore della casa di reclusione di Oristano, al ministro della giustizia, al garante nazionale dei detenuti, al suo avvocato. E questa è una dichiarazione del 7 marzo del 2023, in cui dice: il sottoscritto Alessio Atanasio, nato a Siracusa il 16 luglio del 1970, attualmente ristretto presso la casa di reclusione di Oristano, con la presente informa di aver iniziato in data 5 marzo 2023 rifiuto del vitto dell'amministrazione per protesta contro la condanna a morte di Alfredo Cospito, emessa dal partito fascista, già responsabile direttamente o indirettamente di stragi di migranti in mare, pestaggi di detenuti, aggressione ai danni di studenti di sinistra, violenze sessuali ed altre nefandezze simili. Vuole al ministro della giustizia revocare il 41 bis dell'ordinamento penitenziario a Cospito e subito dopo togliere il disturbo suicidandosi, in modo da lasciare almeno un ricordo positivo di sé. Oristano Massama, 7 marzo 2023. Una dichiarazione potente, direi. Sì, appunto, dicevo, significativa, che dimostra tutta la solidarietà, che insomma tra prigionieri resistenti, esatto, insomma, si sviluppa. Alessio ha voluto insomma dare a Cospito tutto il suo disprezzo, tutto il suo odio per questi assassini del governo, insomma, nel senso, assassini, come si può ben, come dice bene la sua lettera, assassini non solo di Alfredo, ma assassini in generale, insomma, appunto cita le stragi nel mare, i pestaggi nelle carceri, insomma, tutto quello che sappiamo che sta succedendo. Sono responsabili, ecco. Tra l'altro, scusa, lo sciopero del vitto lo sta facendo anche, se non mi sbaglio, Claudio Cipriani, no? Sempre in solidarietà ad Alfredo. Sì, entrambi, sì. Sì. Sì, che lui già aveva rinunciato anche ai benefici, agli eventuali benefici, cioè aveva detto: io non intendo usufruire di eventuali benefici, proprio sempre come forma di solidarietà, sì. Sì, quindi insomma la lotta di Cospito si conferma una lotta che parla fuori e dentro le carceri, insomma, che anche dentro le carceri sta ottenendo molta solidarietà, appoggio, insomma, anche da chi, come appunto Atanasio, il 41 bis lo conosce bene, ha passato 20 anni, infatti ha dei problemi anche di claustrofobia. Ha sviluppato problemi di salute a causa della detenzione, infatti. E quindi insomma lui ci teneva a farci sapere questa cosa. Altra notizia di cui ci informa è che ha fatto una denuncia a querela per reati di falso e calunnia contro i secondini che lo hanno aggredito il 2 gennaio del 2023, ma lui non fa una almeno questa denuncia querela che di cui lui ci ha informato con quest'ultima lettera, che c'è con queste ultime comunicazioni datato 17 del 3, non è per l'aggressione in sé, ma è perché questi signori, per chiamarli così, hanno avuto anche l'iniziativa naturalmente di denunciarlo. Sì. Per i fatti del 2 gennaio 2023, nel senso che lui è stato in realtà aggredito e gli aggressori invece hanno detto che era lui l'aggressore, l'aggressione sì, sì. È partita da lui, da parte sua, insomma. Mm-hmm. Insomma, Atanasio Alessio anche indica i compagni di detenzione come testimoni sì. dei fatti, e quindi insomma un'altra azione legale che lui fa per sì, tutelarsi non parlando noi in termini giuridici, possiamo dire insomma sì, delle falsità, le calunnie, insomma, che sono al di là della qualificazione giuridica dei fatti, sì. Quindi sono degli infami che riescono prima ad aggredirti e poi anche a darti la colpa dell'aggressione, cioè a rovesciare la cosa. Sì. Quindi questo è un'altra cosa di cui lui ci informa e che ci tenevamo insomma stasera a far sapere un po' a tutti, ecco. Ricordiamo che sì, Alessio è sotto processo, tra l'altro in questi giorni dovrebbe esserci anche la sentenza in primo grado, sì. Se non sbaglio è sotto processo a Udine per interruzione di pubblico servizio, sì. Per le querele presentate contro il DAP, contro l'amministrazione penitenziaria di Tolmezzo, contro la direzione, cioè questi hanno avuto il coraggio di denunciarlo e poi le autorità giudiziarie di Udine lo hanno rinviato a giudizio, lo stanno processando per troppe denunce fatte rispetto all'amministrazione penitenziaria, quindi in sostanza loro di denunce ne possono fare quante ne vogliono, sì. Ma gli altri non possono denunciare, non possono ricorrere alla loro giustizia, tra virgolette. Perché sennò gli intasano il lavoro. Sì, e questa stessa giustizia poi ti processa. Come stanno processando anche due di noi, insomma, per aver la prossima udienza, l'avremo il 17 aprile, per aver denunciato, per aver dato voce a quello che Atanasio ci diceva rispetto alla gestione del Covid nel carcere di Tolmezzo, sì. Nel 2019, quindi insomma tutto batte, insomma in sostanza loro pretendono di aver parola e di decidere anche fino ovviamente alla morte o alla distruzione psicofisica, quel 41 bis dei rivoluzionari e degli altri detenuti che cadono nelle loro mani, se si parla ti denunciano, se ci si difende dalle aggressioni in carcere ti denunciano e insomma questa è la situazione, però noi non rinunciamo a dare voce ai detenuti come Alessio, a solidarizzare con Cospito, con tutti i prigionieri esistenti, ecco, con Cipriani ovviamente. Certo. Bene. Vi ringrazio. Grazie a te e alla prossima. Saluto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ihmistä inferno vivere sulle qua. Visto il palico la spillina da sta. Per quella stata con la sua sta. Gli ho carito lei chi mal, se lei che in che sta sta. Ancora so in tacche schegnata, il cubo costa. Con valotta al cavi il cubal, che penso il pal cubal. Mostra stilo in ette per vedere chi riattacca l'uetà. Voimat loppuvat, kun niitä kuluttaa. Vaikka noista täytyy jyvät seuloa. Veljeys, lojaalius ja kunnioitus. Univelat, passiivinen vitutus. Istut satulassa, letkä jatkona. Ajat kaauksesta kohti kuolemaa. Joka ryhtyy leikkimään, se leikin kestää saa. On turha soittaa kesken yötä, itku murkossa. Valot alkaa vilkumaan ja pysty paukkumaan. Muista silloin, että pöytäkirjat alkaa luetaan. Joka ryhtyy leikkimään, se leikin kestä saa. On turha soittaa kesken yötä, itku murkostaa. Valot alkaa vilkumaan ja pysty paukkumaan. Muista silloin, että pöytäkirjat alkaa luetaan. Kestä niin kuin mies. Stiamo ascoltando questa band finlandese, loro sono i La Pimple Taiat, questo è il loro terzo album che si intitola semplicemente Terzo ed è uscito nel 2015 e rimaniamo ancora all'ascolto con questi finlandesi. Hän on valmis toimimaan. telkkarit. Vielä seisovan auton vuosimalli on ihmisarvon mittari. Ympäristön tilannetta huolettaa, jos kaupunkialueella kaavoittaa edullisia vuokra-asuntoja. Näin kouluun tulee liikaa mokuja. Ei ole kärpäsiä. Talvi kaapos kivasti katkeaa. Lomassa kesäkanalia saarilla. Koti äidin painojaan tarkkailee. Vielä säännöllisesti ulkoilee. Mitä seuraa kulmat kortossa? Lasakeiden arvoa. Seikkailuun kun liian kauan on aikaa. Kulunut siitä kun hän viimeksi sai erotikaa. Lomaan kotiin talosta. Pikkujouluista äiti lankeaa. Seikkailuun kun liian kauan on aikaa. Kulunut siitä kun hän sai erotikaa. Oma koti talossa. Bene, questi erano i La Pimple Tayat, il loro album datato 2015 che si intitola semplicemente Terzo e provenivano dalla Finlandia. Ora invece passiamo ad una band italiana, loro sono della zona Imperia Sanremo, quindi in Liguria. Questo è il loro, diciamo, demo tape o insomma CD d'esordio, datato 2014. Loro sono gli Eversione e questo mini album si intitolava Un istante di fervore. Eversione. Yeah! disgusto, mi assale, e sto a te immaginare che non dolore, ma Cristo e Madonna non stanno a sentire. Questi sono gli Eversione dal loro album d'esordio, datato 2014, credo, insomma, un esordio potentissimo. Questo, loro sono della zona di Sanremo Imperia, e si intitolava questo mini album Un istante di fervore. Bene, siamo anche giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Udine di Radio Onde Furlane, e ogni giovedì dalle ore 20 alle 21:30 ci potete sentire in diretta, ovviamente, oppure potete andare a fare questa ricerca internet su dardismagneticsradio.noblogs.org e troverete questa trasmissione, ma anche tutte quelle passate, e potete quindi riascoltarci. Inoltre, se volete contattarci, potete scriverci a posta elettronica alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure scrivere direttamente in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121. Bene, siamo al termine, e inoltre potete anche potete riascoltarci domani in replica su Radiazione, che è una web radio, dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con un brano, forse due, ma non credo. Scusate, eccomi, ma non credo che potete ascoltare più di un brano, comunque noi andiamo all'ascolto, cioè non potete ascoltare più di un brano di questi Concrete Socks, che è una band inglese, dal loro album datato 1987 che si chiama Whoops, Sorry, Vicar. Loro sono i Concrete Socks. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.